La principessa delle montagne blu. Molto, molto tempo fa c'era un palazzo incantato nel cuore di una foresta, fitta e oscura. Un giorno, due uomini persero la strada in quella foresta. Dove siamo? Abbiamo camminato tutto il giorno e non siamo ancora riusciti a trovare una via d'uscita da questa foresta. Torneremo mai a casa? Non preoccuparti, amico. Siamo solo stanchi e affamati. Si sta facendo buio. Riposiamo per la notte. Sono certo che troveremo una via d'uscita da qui la mattina. Chissà quali animali selvatici si nascondono nella fitta oscurità di questo posto. Non possiamo dormire per terra. Là, dovremmo essere al sicuro lassù. L'albero è abbastanza grande e i suoi rami abbastanza larghi da permetterci di riposare comodamente su di loro. E saremo abbastanza al sicuro da qualsiasi animale selvatico. Così, affamati, stanchi e spaventati, i due uomini trascorsero la notte su un albero per proteggersi dagli animali selvatici. La mattina, al primo raggio di sole, dal loro ramo, videro il palazzo. Così si diressero verso di esso. Cosa mai sarà quello? Proprio nel mezzo della foresta. Forse possiamo trovare là qualcuno che ci mostrerà la via d'uscita da questo posto. E che ci dia da mangiare e da bere. Andiamo! Presto, gli uomini furono alla porta del palazzo incantato. Non c'era nessuno in giro. Uno di loro trovò una campana e la suonò. Non appena suonò la campana, la porta si aprì da sola. Stupiti, i due uomini entrarono. Benvenuti! Dovete essere stanchi e affamati. Sedetevi! E così andò avanti per molto tempo. Molti uomini andarono nel palazzo incantato e furono fatti cadere in un sonno profondo, senza fine. Un giorno, un principe si perse nella stessa foresta, dormì sullo stesso albero e al mattino vide il palazzo incantato e si diresse verso di esso. Non appena suonò la campana, la porta si aprì e il principe entrò. Benvenuto. Devi essere stanco e affamato. Siediti. Tu chi sei? E cosa stai facendo in questa foresta fitta e oscura? Perché ti preoccupi? Sei un viaggiatore perso e stanco. Sono certa che tutto ciò che desideri è di arrivare a casa il prima possibile. Il tuo comportamento è regale e compassionevole. Signora, hai qualche tipo di problema? C'è qualcosa che posso fare per aiutarti? Perché non mangi? Non sei stanco e affamato? Riposati un po' prima. Non posso riposare finché non sono certo che starai bene. Perché una donna come te vive da sola in questa foresta oscura? Ti prego, dimmi. So che c'è qualcosa che non va. Non mangerò né riposerò finché non mi dirai come posso aiutarti. Non appena il principe ebbe pronunciato queste parole, tutto cambiò. Centinaia di uomini sono venuti in questo palazzo in cerca di cibo, riparo e aiuto. Ma nessuno di loro è mai portato di me, fino ad oggi. E con un atto così semplice di preoccupazione e compassione hai rotto l'incantesimo che mi è stato fatto 16 anni fa. Grazie. Un incantesimo? Prima di aggiungere altro, ho un compito. Tutti hanno raggiunto le loro case e famiglie. Cosa sta succedendo qui? Ti dirò tutto domani. Ma ora devo andare. Tornerò domani mattina. Prenditi cura di lui mentre me ne vado. Ci vediamo domani alle 9. Assicurati di essere sveglio e pronto a quell'ora. Addio. Per tutta la notte il principe continuò a pensare alla principessa incantata. Si era innamorato profondamente di lei e non poteva aspettare fino al mattino per vederla di nuovo. Ma qualcuno aveva in mente qualcos'altro. mentre il servo preparava il cappotto del principe, vi inserì un ago avvelenato che avrebbe fatto addormentare il principe. Dove sei, tesoro mio? Dov'è il principe? Oh, ho provato a farlo preparare, ma si rifiuta di svegliarsi e dorme ancora. Che cosa? Com'è possibile? Se non dorme, allora dov'è? Guarda tu stessa. Per favore, digli che domani tornerò alla solita ora. E se non è sveglio e pronto, non potrà mai più vedermi. Farò come dici tu, mia signora. Il principe fu inorridito nell'apprendere che si era addormentato quando era arrivata la principessa. Decise di rimanere sveglio tutta la notte. Ma all'alba successe di nuovo la stessa cosa. Il servo rimise di nuovo l'ago avvelenato nella giacca e fece sì che il principe si addormentasse quando arrivava la principessa. Dov'è? Perché non mi sta aspettando? Si rifiuta di svegliarsi, mia signora. Che cosa? Come può essere? Bene, se non dorme, dov'è? Guarda tu stessa. Non posso. Non potrò mai più vederlo. Per favore, tagli questo per me. Farò come dici tu. Il servo diede la spada al principe. Il principe fu inorridito al pensiero che non sarebbe mai stato in grado di vedere di nuovo il suo amore. Il suo cuore malato si rifiutò di arrendersi. Quindi vagò per mesi nei boschi, sperando che qualcuno, un giorno, gli avrebbe mostrato come trovare di nuovo la sua amata principessa. Un giorno, mentre vagava nella foresta, raggiunse una macchia di spine e il suo mantello fu catturato da esse. Incapace di liberarsi, si tagliò il mantello con la spada e quando la luce del sole cadde sulla lama, le parole brillarono su di essa. Principessa delle montagne blu. Le montagne blu? Ecco dove la troverò. Ma dove sono queste montagne? A chi potrei chiederlo? Così il principe vagò nella foresta, chiedendosi chi poteva sapere delle montagne blu. Una notte si imbatté in una strana capanna tutta storta. Ci andò e bussò. Se vuoi del cibo, bussa 3 volte. Se vuoi un posto dove riposare, bussa 3 volte di più. Ma se vuoi la conoscenza, vattene! Quale conoscenza cerchi? Vorrei sapere dove sono le montagne blu. Bene, per questo dovrai entrare. Mangiare qualcosa, riposare per la notte e la mattina aprirò il mio libro e ti dirò tutto su dove sono le montagne blu. Sei d'accordo? Farò qualsiasi cosa tu mi chieda. Dimmi solo dove sono le montagne blu. Molto bene, entra. Quindi il principe mangiò con il monaco e dormì nella casa. Al primo raggio di sole, il principe era in piedi. Uscì. Ah, sei già sveglio! Hai promesso che mi dirai dove sono le montagne blu. Sei un uomo determinato. Molto bene. No, qui non si fa menzione delle montagne blu. Beh, ci devono essere. Ho incontrato la principessa delle montagne blu. Beh, non perdere la speranza. Nel libro di tutto ti dicono anche come ottenere risposte alle domande a cui questo libro non ha risposte. Aspetta. Sarebbe pagina 1, 2, 3, 6, 7. Ah, ecco! Uccelli! Uccelli? Bene, gli uccelli volano in alto sopra questo mondo, sopra valli e montagne. Se c'è un posto da conoscere, gli uccelli lo sapranno. Chiamerò tutti gli uccelli dei cieli e chiederò loro da dove vengono. Almeno uno di loro verrà dalle montagne blu. Allora fallo, per favore fallo. Quindi il monaco uscì dalla sua piccola capanna e mormorò alcuni incantesimi sacri. Presto il cielo fu pieno di uccelli di tutti i tipi. che volavano davanti a lui mentre chiedeva a ciascuno di loro da dove venissero. Ma nessuno di loro veniva dalle montagne blu. Uno a uno, tutti gli uccelli volarono via. Non credo che questo posto chiamato Montagne Blu esista. Esiste, deve esistere. Ho incontrato la principessa delle Montagne Blu. Hai chiamato? Perché ci hai messo così tanto? C'è così tanta musica che suona continuamente sulle Montagne Blu che non ho sentito chiaramente la tua chiamata. Tu vieni dalle Montagne Blu? Sì, la principessa si sposerà con il figlio del mago reale domani. Che cosa? Poverina la principessa. Anni fa il mago le aveva lanciato un incantesimo perché voleva che lei sposesse suo figlio. Perché non dovresti sposare mio figlio? È intelligente, è bello! Non c'è nessuno più adatto a te in tutto il mondo! Ma io non lo amo! Che cos'è l'amore, se non una parola senza senso? Dove speri di trovare questo amore di cui tu parli? L'amore è tutto. E se è vero, mi troverà, non importa dove io sia. Sei disposta a dimostrarlo? Sì. Allora bene, lancerò un incantesimo su questo regno. Il tempo si fermerà per 16 anni, durante i quali rimarrai in un palazzo incantato, nel cuore di una scura foresta. Non una principessa, ma una donna con un velo. Avrai solo un servitore che si prenderà cura del palazzo. Se davvero c'è qualcosa chiamato vero amore, il tuo amore verrà da te nel palazzo incantato. Sarà stanco e affamato. Non sarà in grado di vedere il tuo viso, ma sarà comunque preoccupato per te e non mangerà né berrà finché non sarà certo che sei al sicuro. Quando un uomo del genere arriverà a palazzo, l'incantesimo si spezzerà. D'accordo. E non solo. Lo lascerai non appena l'incantesimo si spezzerà e verrai qui per il tuo carro. Se è davvero il tuo vero amore, non sarà in grado di dormire pensando a te e lo troverai pronto ad aspettarti la mattina dopo. D'accordo. E se alla fine dei 16 anni non avrai ancora trovato il tuo vero amore? Sposerai mio figlio! Lo farò! Molto bene allora! Preparerò l'incantesimo! Padre, e se trovassi il suo vero amore? Ecco perché ti mando con lei! Ti assicurerai di far dormire il suo vero amore con questo ago. Sarai il suo servitore. La povera principessa non sapeva di essere stata ingannata. E domani è il primo giorno dopo i 16 anni. Come promesso, la principessa deve sposare il figlio del mago. Gentile uccello, per favore, portami da lei. Sono io che lei aspetta. Per favore! Come ti porterò sulla mia schiena? E perché dovrei crederti? Questa è una spada incantata. Disegna un carro volante con essa e poi ti condurrò alle Montagne Blu. Il principe fece come gli era stato detto. Grazie, signore. Grazie veramente tanto. Ti serviranno prove, figlio. Prendi questo. Questa borsa contiene la sacralità della verità. Chiunque cospargerai con essa dovrà dire la verità. Il carro volò via alto sopra le montagne e le valli quando il principe la vide, la montagna blu proprio davanti a lui. Aquila, portami dove si trova la principessa, adesso! Principessa, non puoi dire di no! Devi sposare mio figlio! Ti ha aspettato buono e calmo per 16 anni! Ha aspettato, ma non buono e calmo. Cosa intendi? Il servo che hai mandato a palazzo e l'ago che gli hai dato? Storie, tutte storie. Che prove hai? Tu sei la mia prova. Sì, il servo è in realtà mio figlio che ha fatto sì che il principe dormisse ogni volta che sei andato a incontrarlo. Il principe è davvero il tuo vero amore. Io sono un vecchio mago cattivo che voleva tutto questo regno per me stesso e quindi volevo che tu sposassi mio figlio. Dovrei essere messo in prigione e dovresti sposare il principe. E come possiamo toglierti la capacità di fare magia in modo che tu non possa mai più fare del male? Devi prendere il mio bastone! Così il mago fu messo in prigione e il principe e la principessa si sposarono con uno splendido matrimonio. Alla fine, entrambi avevano trovato il loro vero amore. Amore mio, grazie per aver creduto in me. Se non fosse stato per la tua spada, non avrei mai potuto trovarti. Quando il domestico mi disse che dormivi, il mio cuore non poté credere che tu non mi amassi. Quindi ti ho lasciato un indizio e sapevo che avresti trovato un modo per venire da me e il mio cuore aveva ragione. Il vero amore ti trova, non importa dove tu sia. E il principe e la principessa delle Montagne Blu vissero insieme, vissero nel vero amore, per sempre felici e contenti.